Filippo, poi domani credo che, come accennato prima, a chi ti ha chiamato ci sarà un seguito di questa vicenda, però il fatto ha già risposto, se non sbaglio, domenica, no? In che modo? Scusa un secondo. Che stai facendo, Filippo? Con chi stai parlando? No, sto parlando col direttore Belpietro che condividendo pienamente ovviamente quanto è stato scritto da me e Sì. quindi è stato autorizzato, voglio dire, circa la replica del fatto qualcosa forse da dirlo ce l'avrebbe. Ma ho capito, ma il fatto che cosa dice fondamentalmente? Ma il fatto in sostanza, adesso sono qua la loro replica, però sfugge la questione centrale, la questione Cioè, parlano centrale. delle poste che operano in monopolio, aprono le La tariffe questione più. centrale che io torno a sottolineare è il fatto che loro si pongano su un livello virtuoso diverso dicendo che non ricevono alcun Ma infatti il finanziamento punto è pubblico, questo, perché il per il punto. resto ricevono quello che vogliono e io non creo problemi. Sono loro che si pongono, ripeto, su un livello diverso e ora sfuggono a questa questione come se fosse una questione relativamente normale o inevitabile, cosa che per me è nel primo caso, per loro evidentemente no, visto che averla segnalata ha scatenato questo La putiferio. scritta non riceve alcun finanziamento pubblico, scrive il fatto, posta sotto la nostra testata, risponde al vero e viene messa in evidenza per assicurare al lettore la più piena autonomia e indipendenza di questo giornale dai cosiddetti poteri forti, includendo in questa categoria anche i partiti politici. Entro 2 mesi la nostra società poi invierà la prima dichiarazione dei redditi. Però, insomma, qui secondo me è sbagliato il modo di replicare, a mio modesto Sì, parere. sicuramente è sbagliato anche perché c'è scritto che. Perché non è questione di partiti politici, non è che faccia scritto che il fatto prende i soldi dai partiti politici, è un altro discorso, si possono ottenere finanziamenti pubblici anche non passando attraverso i partiti politici. Per questo, su questo però appunto ho qua a fianco Belpietro che qualcosa avrebbe da dire. Maurizio, che succede? Pronto? Maurizio, ciao. Buonasera, buonasera Come stai? a tutti. Bene, bene. No, la storia è molto semplice. La legge sui contributi all'editoria prevede due contribuzioni. La prima per i finanziamenti diretti e la Sì. seconda i finanziamenti indiretti. I Sì. finanziamenti diretti sono quelli dati ai quotidiani o ad altri organi di informazione. I finanziamenti indiretti sono quelli di cui gode il Sole 24 Ore, Certo. la Mondadori, godono tanti gruppi di cui, ed è la parte più importante del finanziamento, e è sostanzialmente un contributo che fa sì che vengano pagati i costi di spedizione degli abbonamenti. Questa è la sostanza. E ciò avviene anche per il Fatto Quotidiano, il quale sotto alla testata infatti scrive una cosa molto semplice, cioè spiega spedizione in abbonamento postale, cita la legge e quindi non è obbligatorio utilizzare questo sgravio in sostanza, questi soldi. Si può anche spedire mettendoci francobollo, se si utilizza questo sistema lo Stato ripiana i costi dando dei soldi alle poste. Questo è il funzionamento della legge.